Cari amici, è probabile che non vi ricordate, però sicuramente sapete come funziona una locomotiva a vapore. Ebbene, in un treno tratto da una locomotiva a vapore in Israele negli anni 50, ad un tratto esce fuori un getto di vapore anomalo, causato da un problema probabilmente nelle tubature, e il macchinista, nonostante il grandissimo pericolo, il pericolo che avrebbe potuto accadere per tutti i viaggiatori, tutti i passeggeri sul treno, fa di tutto per calmare l'andamento del treno, per decelerare, mentre il suo fuochista viene letteralmente gettato fuori dal treno, dal getto stesso del vapore. Lui, pur subendo delle ustioni in tutto il corpo, riesce a fermare il treno e a salvare tutte le persone che vi si trovavano. Questo macchinista si chiamava Shlomo Madanchik. Chi era questo Shlomo Madanchik? E da dove ha tratto questa forza incredibile sotto una situazione di pressione talmente forte? Shlomo Madanchik era una persona che aveva fatto l'aliyah dalla Russia poco prima. Lui già a Tashkent, in Uzbekistan, aveva imparato e aveva già iniziato a lavorare da macchinista. E poco dopo il periodo della Shoah ha iniziato a cercare un po' le proprie radici, il proprio ebraismo, che non conosceva bene. Era un orfano di guerra, non aveva un'educazione, però cercava l'ebraismo. È giunto in un tempio a Tashkent e ha visto degli ebrei hasidici con la barba, gli ricordavano suo padre. Erano i Lubavitch, esiliati dalla Russia durante la guerra e rifugiatosi a Tashkent in Uzbekistan. Però questo era il periodo di comunismo fortissimo nell'Unione Sovietica e chiaramente qualsiasi questione legata alla religione era assolutamente vietata ed era considerata un ribellarsi contro lo Stato. Di conseguenza i Hasidim avevano sempre paura che chi li cercava e chi veniva a trovarsi intorno a loro fosse una spia da parte del governo, e molti effettivamente lo erano. Di conseguenza questo giovanotto sconosciuto che ha iniziato a venire sempre al tempio, per loro era una cosa sospetta. E quindi si allontanarono da lui, non parlarono più con lui, anche se lui chiaramente era molto lontano da quel sospetto. Ma loro non pensavano di poter rischiare. Mio nonno, che era anche lì presente all'epoca, Rav Aharon Chazan, ha intuito ed ha capito che questo ragazzino non voleva altro che avvicinarsi all'ebraismo. E aveva capito che era onesto e non era una spia. E l'ha preso come se fosse un suo figlio, l'ha aiutato, l'ha educato e ha fatto sì che altri lo avvicinassero, lo fecero stare vicino a loro e così lo facessero stare vicino a loro e così si è avvicinato molto e è diventato un ebreo osservante e studioso dell'ebraismo. Nel 49 è riuscito a lasciare l'Europa ed arrivare in Eretz Israel ed ha subito ricevuto e stato assunto come macchinista nel Rakevet Israel. Tra l'altro, la mattina del 7 agosto 1949 era stata rinnovata la linea ferroviaria tra Tel Aviv e Gerusalemme. Alle 8 del mattino è partito un treno, tutto decorato, eccetera, verso Gerusalemme da Tel Aviv. All'interno del treno si trovavano tra i passeggeri David Ben Gurion, e altre importanti personalità del governo israeliano. Chi era il macchinista? Il nostro amico Shlomo Madanchik, un ragazzino nato in Russia, salvato dalla Shoah, ha portato il primo treno verso la città sacra, la città santa di Gerusalemme. Pochi anni dopo, Shlomo Madanchik è stato nominato come capo del consiglio del villaggio di Kfar Chabad, il villaggio Chabad vicino a Tel Aviv, praticamente come il sindaco del villaggio. E anche se il villaggio all'epoca di Kfar Chabad era un villaggio abbastanza piccolo, ma rappresentando in qualche maniera il movimento Chabad in Eretz Israel, lui portava i messaggi del Rebbe di Lubavitch ai capi di governo di Israele, ad altri membri della Knesset e così via, e formò delle amicizie vere e proprie che durarono una vita con persone come Begin, Sharon, Rabin, Shamir, Peres. Erano i suoi amici proprio personali, andava a casa loro, tutte le famiglie lo conoscevano. E in questa maniera è riuscito a fare moltissimo bene in Eretz Israel. Una delle volte che Shlomo Madanchik è venuto a New York a trovare il Rebbe di Lubavitch, il Rebbe gli ha detto: guarda Shlomo, tu sei il sindaco di Kfar Chabad, dovresti andare ad incontrare il sindaco di New York, che all'epoca era, in quell'epoca era un ebreo, si chiamava Abe Beam, e Madanchik ha fatto come il Rebbe ha suggerito, ha preso altri Hasidim con sé, è andato a trovare il sindaco di New York. Il sindaco di New York con il sindaco di Kfar Chabad, che tra l'altro non parlava una parola d'inglese. Ma avevano una lingua comune, perché anche Abim era un ebreo, anche se non conosceva molto dell'ebraismo, non era molto osservante. Madanchik portò con sé un lulav e l'etrog, le quattro specie, perché era durante la festa di Sukkot, e gli fece fare la berachah, ed era così contento di aver fatto questa mitzvah che dopo che il signor sindaco Bim fece la berachah e la mitzvah sul lulav, Madanchik lo abbracciò e lo baciò. Dopodiché Madanchik disse attraverso un traduttore, con l'aiuto di un traduttore, al sindaco Bim. Era un'epoca in cui New York aveva gravi problemi economici, il municipio di New York. Disse: guardi, ho sentito che ha dei problemi finanziari. Anche io, come sindaco di Kfar Chabad, ho problemi economici. Ok, è chiaro che è un altro tipo, un altro metro per misurare, però alla fine sono problemi economici. Allora gli ha detto: guarda, io ti consiglio, da sindaco di Kfar Chabad, ti consiglio che l'unico modo per superare le preoccupazioni è attraverso la simcha, attraverso la gioia, gli disse. E noi Hasidim cerchiamo sempre di essere gioiosi. E quando un ebreo è gioioso, Hashem aiuta. Questo, possiamo dire, era davvero il segno di riconoscimento dei Hasidim in generale, ma di Shlomo Madanchik. Tra l'altro, forse alcuni di voi avete conosciuto il suo figlio, perché il suo figlio è il responsabile del Bet Chabad all'aeroporto Ben Gurion, che tutti conoscono. In ogni caso, la Simcha è il tema di questi giorni, è il tema centrale della festa di Sukkot. La Torah ci insegna che bisogna gioire durante le festività, ma quando si tratta di Sukkot, la Torah sottolinea ancora di più e doppiamente parla della Simcha, con la quale bisogna gioire durante la festa di Sukkot. Qual è lo scopo di questa festa? Scusatemi, qual è lo scopo di questa Simcha? Perché deve essere una Simcha così forte? Noi stiamo venendo dal mese di Elul, in cui ci siamo preparati per l'inizio dell'anno. Abbiamo festeggiato Rosh Hashanah, abbiamo segnato Kippur, in mezzo ci sono stati 10 giorni della Teshuvah, e poi festeggiamo Sukkot. La Simcha di Sukkot deve essere così forte, perché è questa, proprio la Simcha, proprio la gioia, che ci aiuterà a portare tutta quella energia positiva, iniziata già da prima di Rosh Hashanah e portata fino a questo momento. Cos'è il veicolo che porta quell'energia positiva attraverso tutto l'anno che, se Dio vuole, verrà in bene? È la Simcha. È la gioia che trasporta noi e trasporterà quella energia speciale, particolare, fortissima e profonda. E per questo la Simcha della festa di Sukkot è una Simcha crescente. Ogni giorno di Sukkot bisogna aumentare la Simcha ancora di più, finché arriviamo all'apice, Simcha Torah, la Simcha infinita di ballare con la Torah. Chag Sameach a tutti quanti.